And then you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene il tuo puzzetto. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Ma che? Galla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi che? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. No, idioti, I did my Xbox Media. E basta con tutto sto casino. Ma la gente quando deve dormire si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Carissimi amici Runtime Radio, benvenuti a questa nuova puntata di OGM Soch Media Edition. E scusateci perché la sigla era sbagliata. E vi presento ovviamente tutti coloro che sono qua con noi, insomma, a fare questa meravigliosa puntata. La gioia incontestabile, inconsumabile per il suo 49esimo compleanno, Marco Gualdi. Moriremo tutti. Bene, io sono anche abbastanza d'accordo, tutto sommato, anche perché poi, cioè, non è che hai detto chissà che cosa, cioè, si sa. Sì, prima del dovuto. Prima del dovuto, vabbè. Walter Sbano! Buonasera, bentrovati, tanti auguri a Marco. Guarda, devo dire, gliene davo massimo 48 di anni. Sì. Lo so, me lo dicono tutti. Io ne davo di più, detto il vero, poi conoscendolo, sai, un po' non ci vede... Poi apro. Non ci sente, il ginocchio fa contatto col gomito. Hai capito? Carmine Puccio Consoles. Che lui bippa. Che fa? Corriamo tu con tanto lunga vita tra noi, ragazzi. Ah, ok. Che bellissimo. Che abbiamo vissuto tutti insieme, eh? La mia vita. Io non ho seguito niente, però Puccio si sente veramente de merda, eh? Cioè, proprio. Anzi, vado a trovare un altro microfono, che vi devo dire. Ma no, ma proprio tipo. Vai a trovare un altro te stesso, visto che ci sei. Magari trovi un altro Puccio Consolo nel cassetto. Che ne so. Va bene, comunque, mentre che Puccio cerca di rimediare con la tecnologia a sua disposizione. E sono tante, poi. L'audio proprio. Lo so, l'audio. Voi cari ascoltatori, dovete sapere che. Quando qualcuno di noi chiede un aiuto o su un'informazione, su un hardware qualsiasi, hardware, qualsiasi Puccio, lui sa. Non solo lui sa, ma lui dice, lui ha. Se ne ho uno disponibile, esatto, bravo, le esatto. Cose buttate lì. Esatto. Perché lui ce l'ha. Come il NAS che sta sulla scrivania. Se Puccio sta sulla scrivania con la scatola e l'indirizzo di casa di Simone scritto su. Sta bene, prima o poi arriverà. Va benissimo, comunque niente, volevo dire che vabbè, a parte che è il compleanno di Gualdi, quindi auguri ai Gualdi. Grazie, a grazie. Parte che abbiamo sbagliato la sigla e a parte che fra poco non se ne accorge. Ma come nessuno. Si capisce che la sigla è quella sbagliata? È più lunga, come si conosce? Era più lunga, è più lunga, è tornata quella più lunga, capito? Cioè, invece in realtà piano piano si scorciava. Io non noto la differenza. Vabbè, ma tu noteresti comunque la differenza perché tu non l'ascolti, quindi Questo non è vero, non è che non ascolto, non capisco, è diverso. Ah, quindi sei stupido. Esatto. Vabbè, perché d'altronde poi oggi sei ancora più vecchio. Come faccio a fare una trasmissione del genere con un'intelligenza media? È possibile. E con l'intelligenza artificiale, ad esempio, tipo, che ne so, potremmo, e allora facciamo in continuazione. Potremmo tirar fuori un'altra volta ChatGPT, che adesso oramai è di nuovo tra noi, e potremmo farci combatte la puntata. Potremmo fare un gioco di ruolo, sai, che si può fare il Dungeon Master? Invece di fare queste puttane lunedì sera, potremmo giocare di ruolo. Sì, ma può farlo, non lo so se lo può fare. Sì, sì, cioè, sì, lo può fare. Può fare, però può deve fare tutto. Si inventa la storia. Che fai? Si inventa la storia. Ma sti cazzi, le inventi a casaccio. Ah, okay. Gli dice a lui, ma perché? Che ci sta a fare? Allora potremmo suggerirlo a Leo piuttosto di fare i fantastici, esatto, libri game. Insomma, che... Guarda, che secondo me funzionerebbe. Ma invece di fare, diciamo, invece di stare qui a fare queste cose, gli facciamo fare a ChatGPT, facciamo fare anche la storia. Fai tutto tu. Cioè, infatti chi ci va a fare? No, poi dovevo dire anche dell'altro, ma non me lo ricordo, cioè, nel senso, me l'ero pure preparato mentalmente. Stavi presentando qualcuno? Puccio, Walter, basta. Poi no, poi Francesco, che fra poco ci raggiungerà, insomma, e via dicendo. Comunque, tra l'altro mi sto documentando ultimamente, perché sembra che c'è William Shatner che ultimamente non quaglia su Twitter, cioè, sai, lui quaglia abbastanza spesso, no? Però quando comincia non quaglia. E dice che ha rilasciato recentemente un'intervista dove, insomma, lui è... Dice che non camperà per molto. Esatto. Sì, ma questa è una notizia già che è di un paio di mesi fa. E l'ha ribadito. Ma secondo, secondo te questa cosa che lui non sta tanto bene, Berlusconi non sta tanto bene, che collegamento c'è? Beh, no, non c'è, ci sarà, io comincio a pensare che tutto sommato, ma voi avete mai visto William Shatner e Berlusconi allo stesso punto? No, però sono fisicamente un po' troppo diversi, cioè non è come Clark Kent che tu gli metti la mascherina, gli levi la mascherina, togli la parrucca. Non è la mascherina, c'è ragione, gli occhiali, hai ragione, scusa, sbagliato. Comunque gli togli la parrucca, uno dei due, e là diventa l'altro. Esatto. No, più che altro, ecco, prima di parlare del re, di insomma, delle cose, insomma, Twitter, Sbano, che sicuramente avrà, insomma, qualche notizia, tu c'hai le recensioni, immagino. Io invece volevo raccontare una storia, parto proprio col botto oggi, una storia che viene proprio dai social media, perché in realtà una cosa, forse l'unica cosa tra virgolette positiva, diciamo, di questi ultimi, queste ultime iterazioni, no, tipo TikTok in particolare, che è un po' lo YouTube e poi l'Instagram all'ennesima potenza, cioè nel senso proprio l'ipervelocità, no? E diciamo, ci sono alcuni personaggi, in particolare a Napoli, devo dire che Napoli su questa cosa, poi alla fine poi parliamo anche magari qualche accenno pure sullo scudetto, cioè devo dire che su questa cosa c'ha creatività a Napoli, no? Cioè, nel senso, e un po' la creatività, un po' perché dopo si mettono in moto dei meccanismi, delle società di marketing, tutto quello che volete. Però ci sono, praticamente, invece di fare il TikTok fino a se stesso, c'è gente che riesce a fare una sorta di autopromozione per la propria, per il proprio lavoro, per la propria professione, no? Ed è il caso di Donato, non so se conoscete Donato. Donato è quello che su TikTok... Io conosco Donato l'allupato, non so se è lo stesso. No, non è lo stesso. Donato faceva i panini, lui lavorava praticamente dentro una salumeria ed era diventato famoso perché lui su TikTok praticamente faceva vedere sti panini che lui faceva, insomma, no? Però poi ci ha avuto dei problemi sia con TikTok, che gli aveva bloccato un po' l'account per un periodo di tempo, poi si era capito il perché. Perché praticamente i proprietari del locale dove lui lavorava non volevano che lui facesse sti video all'interno del... Che poi lui non è che inquadrava le altre persone, inquadrava se stesso e faceva i panini. Era diventato popolare. Poi vedi, questo è un ragionamento un po' all'inversa, no? Perché se è diventato popolare ti porta gente e a te imprenditore, datore del lavoro, ti dà fastidio. Quindi sai... Perché poi c'è sta questa cosa. Allora, vabbè, poi è subentrato lui poi ha annunciato che non avrebbe più potuto fare i panini, cioè fare i video dei panini e roba del genere. Poi alla fine comunque è subentrato un imprenditore di Milano, di cui oggi non ne parliamo perché insomma è un personaggio un po' particolare. Non è Berlusconi? No, però non è neanche né positivo né negativo come personaggio, però insomma devo dire, a me non è che mi faccia proprio impazzire. È un neutrale. Però lui gli ha detto: guarda Donato, dato che tu insomma alla fine cerchi lavoro, perché insomma poi alla fine penso che lui aveva anche perso il posto di lavoro, io ti finanzio al 100% il tuo nuovo chiosco, insomma c'è proprio un negozio che hanno fatto, una salumeria bella grossa, roba del genere, e tu ovviamente ripaghi col 50% e praticamente lui si è aperto questa, ha aperto finalmente questo suo chiosco, ha continuato il grande successo su internet. Poi lui era famoso perché quando spaccava i panini e ti chiedeva il panino giù come lo vuoi, con mollica o senza, no? Cioè nel senso, quindi questo è diventato il nome del, del, del locale, no? Smolligati, mollicati, insomma lui giocava molto su tutto su questa cosa qui. E quindi una storia a lieto fine, perché lui comunque ha continuato ad avere grandissimo successo e ha avuto insomma questa opportunità di andare in proprio e metterla un po' nel culo al vecchio datore di lavoro che manco gli stava bene che faceva le cose. E quindi tu dici, una storia a lieto fine? No, perché poi praticamente, ciao Michela, salutiamo Michela che ci saluta, perché praticamente che è successo? È successo che un giorno per un po' di tempo lui non ha pubblicato video, perché lui continuava a pubblicare video, e tutti si domandavano che è successo, che è successo, e andavano, praticamente a questo gli hanno ammazzato la madre, gliel'hanno decapitata e gliel'hanno bruciata. Allora tu dici, in un contesto sbano, che è successo? Chiedo scusa, avevo il canale aperto. Era il contesto quello. Da posto. Un momento. Vabbè, specifichiamo. Mi stavo addormentando su. No, non ti ho addormentato sui pulsanti. Ho quasi finito. Praticamente, insomma, vabbè, è successa questa cosa abbastanza drammatica, no? E alla fine mi sono ricollegato ad altri personaggi, sempre di Napoli, che stanno attivando praticamente una loro posizione anche dal punto di vista professionale, sempre con queste cose abbastanza fantasiose, che a quello gli chiudono il chiosco, a quell'altro gli sequestrano la pescheria, a quello. Insomma, dico, c'è questa voglia di emerge in qualche maniera, c'è sempre un sistema che in qualche maniera te li tira giù. Però questa cosa incredibile di sto omicidio della madre di sto Donato è che non era un omicidio normale, cioè, perché prima si diceva che erano la vicina di casa, un litigato. Innanzitutto, cioè, siamo sicuri che sia un omicidio? È un omicidio. Potrebbe essere un incidente, un suicidio. Ma sai, un suicidio con la decapitazione. Può succedere di tutto. Esatto. Cioè, chissà che cazzo di storia ci sta dietro questa cosa. A me mi ha sempre. Perché poi alla fine tu, quando diventi, secondo me, popolare ed emergi magari da un contesto dove magari sei collegato, hai fatto sgarbo a qualcuno, non hai pagato il pizzo, roba del genere, te decapitano e te bruciano la mamma. Insomma, è una brutta storia. Insomma, devo dire che. Se... Decapitare è tanta roba pure per la camorra. Cioè, mi sembrava molto strano. Si è messo contro i nigeriani, no? Non lo so contro chi si è messo. Cioè, questo razzismo contro i nigeriani. Pare che non c'entri il fatto. Pare che non c'entri il fatto che lui faccia quel lavoro. La tipa che ha ucciso la mamma ha dei problemi mentali seri. Sì, ho capito. Trovarsi in un istituto, però. Questo l'abbiamo capito della storia che è emersa più, però cioè, vuol dire, arrivare a decapitare e a bruciare una persona, insomma, capisci? Cioè, decapitare non è facile. Sono ieri, guardate, io penso che possa succedere di tutto. Non so se avete saputo che c'è stato un tizio che è uscito pazzo, ha ucciso la figlia, il fidanzato di lei, ha lasciato viva l'ex moglie dicendo adesso voglio ammazzare anche il bambino, a te ti lascio viva, insomma. Scusate, c'ho un po' di paprika nel naso. Da una paprika sul viso. La paprika nel naso. Che bella. Nel naso che non altrove. No, vabbè, comunque alla fine, ecco, insomma, chiudendo un po' tutta sta storia, veramente la storia di Donato, poi alla fine, cioè, tu comunque questi personaggi in qualche maniera, non dico te ci affezioni, però cioè è incredibile, questo è un momento positivo della sua vita, che finalmente aveva svoltato, si trova con un dramma così incredibile, perché poi lui, cioè, si è visto proprio che cioè, poi vabbè, gli hanno dato pure troppo spazio, andava poi a tutte le trasmissioni, perché sta cosa della madre, il modo in cui è morta probabilmente è stato incredibile. Però insomma, poi la cosa positiva è che invece tanti altri, tipo New Martina, quello della pescheria, tutti gli altri, insomma, più o meno hanno continuato invece a fare TikTok e a sviluppare praticamente la propria impresa senza che per ora nessuno ci abbia perso la testa. Esatto. Per ora, insomma, facciamo un bocca al lupo a tutti quanti. Ecco, volevo dire solo questo. Walter. Buonasera. Quindi? No, niente, questa era... Anche tu stai facendo TikTok. Sì, lui sta a fare TikTok sul mixer, però. Sì. Esatto. A posto. Li premo tutti. Allora, vabbè, in realtà, ciao. Prima di tutto. Io tutti questi vari paninari non li guardo, non li frequento. Di Napoli conosco solo Poké Mad, che però è uno che si è dato all'imprenditoria senza canali social. Cioè, esiste sui social per promuovere la panineria, ma non fa video particolari, quindi altro livello, altra scuola. Come si chiama, scusa? Puok. Più per esteso Pokémon, perché veniva da quando ancora non era famoso. Però diciamo che se non c'hai il prodotto, tu puoi fare tutti i social che te pare, no? Così come se c'hai il prodotto puoi anche non farli, no? Nel senso che alla fine questa è una derivazione anche positiva. Cioè, tutto sommato, tu fai vedere che fai il panino, che c'hai determinati prodotti, la gente viene e tutto tira tutto. Ma se poi il panino fa schifo, cioè, nel senso, comunque è pure una forma positiva, no? No, certo. Io dicevo, insomma, ho mangiato solo quello di Puok ed è anche un ottimo palino di quelli luridi pieni di roba, cioè stava, insomma, quindi vabbè, uno di quelli che ha avuto successo magari un paio d'anni prima, perché parliamo di un imprenditore giovane che sta sul mercato del panino da asporto già da qualche anno. Comunque, che dobbiamo dire, ragazzi? Che è stata una settimana abbastanza piena, ma di fatto sui quali è un po' difficile scherzare, a cominciare vabbè, ovviamente questo fine settimana la decapitazione no, dice, sui quali non è facile scherzare, a partire dalla decapitazione del Maccollizzo. Esatto, ma noi ci riusciremo, no, non, infatti, vi cioè, non ci sfidate, insomma. Esatto. Beh, comunque, vabbè, poi magari ci intratterremo dopo. Ovviamente il fenomeno mediatico di questo fine settimana è stata l'incoronazione del povero Charles di Windsor, che si è messo sti 2 chili di oro e di pietre preziose sulla capoccia. Io, mentre vedevo tutta sta cerimonia con tutta sta gente in ipersfarzo, tutti veramente cariatidi, sono andato un attimo a guardare. Ragazzi, mi sa che a breve ne vedremo un'altra di incoronazione. Io mo non vorrei insistere, ma questo gli è rimasta una messa in giro di palazzo. Avrei sovrasseduto. Posso dire, infatti, sta cosa, cioè, e mi fai, ti do ragione al 100%, perché io l'altro giorno ho visto, cioè, 2 giorni fa, ieri forse, ho visto la foto di Re Carlo e ho detto, certo che la madre l'ha portato fino al giorno prima di stirare a farlo diventare, perché è vecchio, è veramente vecchio lui. Quanto? È 75 anni circa. È il più anziano re della storia d'Inghilterra. Ma veramente lei proprio pezza di merda, cioè proprio incredibile. Cioè, beh, no, vabbè. Lei ha regnato 70 rotti anni, è morta a 99, 95, quanti erano, non so. Se l'unico motivo per cui avrebbe continuato a campare è di non far diventare re il figlio. Sì, per non far diventare il figlio, ma infatti sì, diciamolo, se si è detto per tanti anni che c'aveva sta cosa. E ormai, secondo me, a 74 anni compiuti, avrei detto, fossi stato Charles, avrei detto sì, ma chi me lo fa fa? Ormai, cioè, che deve fare nella vita lui? Sì, ma avvicina al microfono, però. C'è 74 anni, ma che deve fare? Tempo gastato. Puccio, però tu devi fare qualcosa, perché sei un trans in un'altra stanza. Sì, sei un trans che rutta, tra l'altro. Un trans in un'altra stanza. Vabbè, guarda, è meglio così il cellulare a sto punto. Cioè, quasi, di fatto sto andando a prendere gli auricolari. Ecco, molto si sentiva bene, incredibilmente, per qualche ragione. Per qualche ragione misteriosa. No, comunque ha ragione Walter, cioè sta cosa è veramente incredibile. L'ho visto e dico, certo, porca puttana. Tra l'altro, a quanto abbiamo capito, ma neanche una certa percentuale dei sudditi lo vuole sto cazzo di re. Cioè, ci sono senso, gli antimonarchici anche. Beh, ragazzi, al di là degli antimonarchici, che ci avrebbero anche ragione, perché poi la monarchia inglese è assolutamente inutile, costa miliardi ai contribuenti, esatto, e non serve a niente. Cioè, esatto. Parliamoci chiaro. Aspettate, e poi lui ha dichiarato che lui è lì per servire, non è per essere servito. Quindi, ma porterà un po' di soldi. Si è visto, infatti, si è visto la cerimonia, una cosa di un barocco, di restituta, perché lui, l'ultima volta che si era svolta una cerimonia analoga è stato 70 anni fa, e forse poteva aver senso. Ma tu adesso, abbiamo un'idea di che cosa abbiamo visto nel 2023? Io ero agghiacciato sabato. Eppure Walter dovresti essere anche un po' orgoglioso, tutto sommato. Sì, perché vai, dillo tu, io mi vergogno. Perché, ragazzi, no, questa cosa è clamorosa. Incredibile, io manco sapevo che esistesse, poi, tra l'altro. Ma nemmeno io, fino a quando non ho letto, perché tra le varie personalità artistiche che si sono esibite al incoronazione del re, pensate che c'era una banda musicale di Monterotondo. E non sto scherzando. Sì, sì, la jazz band di Monterotondo. Gli unici non inglesi che si sono esibiti alla cerimonia sono una band jazz di Monterotondo. Io ho sempre detto che Monterotondo in qualche maniera, tu dici, ah, ma voi fate la radio, parlate sempre di Monterotondo, e te credo. Non possiamo fare a meno. Ma poi, cioè, io posso, ma fare, tu sapevi appello che c'era una jazz band di Monterotondo? No, posso fare un appello, no, appello. Posso fare un appello a tutti quelli che non abitano a Monterotondo. Ma che cazzo starà a fare fuori da Monterotondo? Venite qua che i casi costano pure. Boni, già sono troppi i matti da noi, no, non esageriamo. Appunto, dobbiamo anche pensare al ricambio generazionale, No, quello c'è sempre, sono i non matti che mancano. No, infatti poi sembrava un po' brutto, anche se magari dopo ci ritorniamo e così Walter continua sulla, magari sul filo logico che si era costruito, è che l'altro giorno il Napoli ha vinto lo scudetto e a Monterotondo festeggiavano, quindi c'è senso sempre, c'è sempre, allora, qualcosa per sicurezza, visto che ci hanno festeggiato anche a Bari, che ci odiamo. Vabbè, ma no, se odiate, ma che Bari, io quando sono stato a Bari, ma sempre Terronia lì, ma come fate a odiarvi? Comunque qui a Monterotondo per sicurezza qualche giorno prima, poi del giorno prima, hanno festeggiato una delle Madonne, che è una sola, in realtà ci sono tante Madonne. Guarda, ultimamente c'è stato il santo patrono di Monterotondo, no, ma c'era anche un'altra San Filippo Madonna, e Giacomo, che io non so ancora, esatto, che aveva i colori bianco e celesti, bianco e azzurri, come quelli che mettevano i festoni bianco al Napoli. Bianco e celesti è una cosa, bianco e azzurri è un'altra. Ma cominciamo, non lo so, quelli che mettevano, c'è gente che ci ha pietà accortellata. Comunque in ogni caso ricordava molto Napoli questa cosa, Napoli. Che era tutta quanta imbellettata. E ricordiamo che a Monterotondo fu girato un film che teoricamente era ambientato a Napoli, tant'è che sulla scalinata lì dalla fontanella via Cavour c'erano messo il murales di Maradona. Il finto murales di Maradona, sì, era il clan dei camorristi, era una serie di una fiction di Mediaset che io non ho mai visto, avrei voluto vedere solo per quella scena lì, cioè solo per riconoscere. Ma guarda che nel centro di Monterotondo negli anni è diventato, sì, tanto, il centro storico è diventato Spaccanapoli, è diventato Catania, perché ci hanno fatto pure Squadra Antimafia, ce l'hanno fatti tanti, ci hanno fatto i RIS, Monterotondo è diventato qualunque cosa, perché quando Tau 2 deve girare delle esterne viene a rompere i coglioni qua. Ma in realtà io quello che penso è che Monterotondo, cioè, è andata alla Film Commission Lazio, è stato detto... è stato anche la Puglia, Puccio lo sa. C'è stato tipo, che ne so, il Puglia, la Puglia, Monterotondo e la Puglia. No, dico, comunque secondo me Monterotondo è andata alla Film Commission Lazio e gli ha detto: "Oh regà, noi non c'è problema, cioè tu potete tranquillamente tutto quello che volete", esatto, e quindi quando uno contattava la Film Commission e dice: "Oh, dovrei fare sta cosa a posto Monterotondo vabbè ragazzi, anche abbiamo iniziato, c'è stato... negli anni 80 con College, io ve lo ricorderò sempre, anche perché qui c'è College, stato, c'è stato davvero... Lynch c'è stato qui, quindi sì, no, ma Lynch però in incognito, lo so che è in incognito, però ci ha fatto la sua fortuna Lynch, e so, anche tanti poliziotteschi degli anni 70, quelli con Thomas, per esempio, Millian, quelli con Nico Girardi, ci sono delle scene ambientate a Monterotondo, cioè non che riutilizzano Monterotondo come Cesare Giraldi di altre città, non solo Roma. C'era Cesare Giraldi con l'asta del microfono che ci stava a cercare, diceva: "Ma dovete pagare l'asta del microfono?" Vabbè, vai Walter, prego. No, beh, comunque insomma c'è stato l'evento mediatico del momento, che poi è stato interrotto da uno ancora più mediatico, perché chi poteva avere l'ego così smisurato di pensare di interrompere, ovviamente in Italia, la celebrazione dell'incoronazione del re per parlare di se stesso, se non Berlusconi? Eh sì, so, però non ho seguito, devo dire. Alle 13 del sabato, durante i telegiornali di regime, cioè di Mediaset, c'è stata la presentazione di questo video messaggio di Berlusconi, perché se non ricordo male coincideva con l'anniversario di fondazione di Forza Italia. E c'era, ragazzi, questo video di Berlusconi, veramente, cioè, ridotto, gli è rimasto non uno shampoo de vita, un colpo de phon. Anche un colpo di tosse, probabilmente. Esatto, però. Un colpo di tosse, ancora dall'ospedale, dove hanno allestito una sorta di set di fortuna, e in cui sempre più emaciato, sempre più truccato male, sempre più la Salma de Mao sembrava, e ha fatto sti 20 minuti di sproloquio in cui raccontava per l'ennesima volta la solita storiella di quando gli hanno chiesto di scendere in campo, però con sempre meno forza per pronunciare quelle parole, sempre più con una dentiera sgangherata, quindi una cosa di una tristezza che chi ovviamente di mestiere fa comunicazione si sta domandando chi è il pazzo che gli ha consigliato di fare quella cosa, perché veramente non credo neanche fuori... che ci sia qualcuno che consiglia di farlo, cioè piuttosto gente che consiglia di non farlo, ma lui lo fa. Io dei Berlusconi ho capito, cioè nel senso ho estratto una frase che però adesso ho dimenticato, tipo che loro rappresentano i santi della libertà, sono gli angeli della libertà, sono la chiesa, no, una chiesa laica, una cosa, ma non mi ricordo, però ho usato proprio una cosa proprio. Beh, ragazzi, Berlusconi è andato da Martini, tempo vede dei comunisti sotto al divano, avrebbe, vabbè, su quello ci ha creato il Papa, però ovviamente il Papa che scopa, non il Papa. No, però è stato proprio un termine, mi è rimasto impresso. Noi siamo tipo una religione, cosa del genere? Siamo, sì, non so se adesso te lo cerco, dai. Anch'io lo cerco. Vai Walter. Vabbè, insomma, direi che questo è quello che ha condizionato gli ultimi giorni di social, però poi in realtà ci sono state anche altre notizie particolarmente brutte, perlomeno per chi è interessato a determinati contesti un pochino più sociali, anche un pochino più impegnati, perché c'è stata la notizia dell'annuncio di Michaela Murgia, la scrittrice, che ha dichiarato di avere un bruttissimo tumore al quarto stadio e che l'ha portata ad avere, diciamo, un'aspettativa di vita piuttosto breve, si parla di mesi. E da lì, ovviamente, essendo una scrittrice abbastanza impegnata politicamente, anche abbastanza antifascista e con pochi peli sulla lingua, chiaramente non si è fatta mancare nel suo modo comunque di sdrammatizzare, di esorcizzare il problema, dicendo: spero di vivere abbastanza per non lungo ancora per non vedere più Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Che, voglio dire, siccome subito prima aveva spiegato di avere un'aspettativa di vita di pochi mesi, fondamentalmente ha augurato al governo di morire presto. Esatto. Comunque, Berlusconi ha detto, scusa, tranne Giorgia Meloni, che ovviamente ha replicato con la delicatezza opportuna, ovviamente, esatto, in un modo che poi è stato percepito da persone diverse in modo diverso. Qualcuno, anche, diciamo, al di sopra di ogni sospetto, ha cercato quasi di difendere il posto della Meloni, che sembrava volesse essere ben augurale. Secondo me ha girato l'attenzione su di sé in modo anche abbastanza maldestro, perché è velocito da Facebook. Nel suo messaggio c'è scritto: apprendo da una lunga intervista che la scrittrice Michaela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. Ed io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più presidente del Consiglio come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela. Quindi poi, vabbè, tutto sommato si può interpretare come sì, si vuole. Vabbè, perché noi ci vogliamo mettere chiave di lettura. Io, che sono un pezzo di merda, preferisco quello in cui lei ha girato su se stessa la questione. Poi chi è più buono di me la girerà come un buon augurio di lunga vita implicito. Però voglio dire, in qualche modo così hai dissolto l'attenzione dalla notizia tragica e te la sei tirata addosso. A me personalmente, visto anche il tipo, visto che poi, scusate, lei ha anche detto, ha esordito nel messaggio dicendo non ho mai condiviso le sue idee, e visto, insomma, che sappiamo che sono agli antipodi, allora forse un dignitoso silenzio era meglio, era molto più istituzionale, molto più elegante. Però personalmente, opinione personale. No, sì, vabbè, però dai, comunque tutto sommato è stato anche decente, avrebbe potuto veramente tutto sommato. Sì, esatto. Comunque Berlusconi è stato un po' meno decente, perché Forza Italia è una religione laica della libertà. Sì, una cosa del genere, sì. Vabbè. Puccio, stavi dicendo. No, stavo dicendo, ammesso e non concesso che l'abbia scritto lei e non il social media manager. No, ma che non l'abbia scritto lei è evidente, però insomma, per me sì, vale la persona che è portatrice di quel profilo, non mi interessa se dietro c'è. No, diciamo che più che chi l'ha scritto è il fatto che gli hanno detto che c'è l'intervista che sicuramente non avrà letto, però diciamo che alla fine, comunque, se tu anche, voglio dire, allora, tanto a me dispiace tantissimo, perché io comunque la Murgia non condividevo sempre tutto, chiaramente, no, ma però in generale comunque la seguivo, soprattutto a Radio Capital e via dicendo, però e quindi veramente sono rimasto molto colpito da questa cosa. Però certo che da una parte, se tu comunque a fronte di una dichiarazione del genere poi fai ulteriori affermazioni anche relative a altre persone, non puoi pretendere comunque che qualcuno comunque non ti risponda, no? Io per decenza magari avrei fatto finta di niente, però è chiaro che la Meloni, chi è la Meloni. Riferendoti a chi, non ho capito. No, nel senso è comunque se tu dici ah io sto male, ho il tumore al quarto stadio e mi rimangono pochi mesi, però spero di campare abbastanza per vedere. Vabbè, ma lei lo ha fatto consapevolmente, cioè lei l'ha voluto, appunto, comunque, cioè, lui l'ha comunque fatto con una logica ben diversa, se lo, era anche nella posizione di dire mi posso togliere tutti i sassolini dalle scarpe. Sì, vabbè, però non è, perché non è manco giù, cioè nel senso se tu metti ah io sono un povero zoppo, allora alla fine nessuno mi può di niente perché sono un povero zoppo. Beh, cioè, ma in realtà senso è molto in linea col personaggio della Murgia, che non è che se ne mai, cioè non è che prima te le mandassi a dire, no, infatti, semplicemente infatti, adesso ha maggior ragione, sì. Anzi, a me è piaciuto perché in qualche modo ci sta. Anch'io non sono un particolare ammiratore della Murgia, però in questo caso lei, in qualche modo, intanto salutiamo Francesco, mette a disposizione di tutti le ultime sue energie per lottare contro un governo che ci sta dando più problemi del dovuto. Che era quello che sapevamo, insomma. Poi alla fine. Sì, sì, però voglio dire. Quindi salutiamo Francesco. Ciao, raga. Ciao. Stavo trovando il microfono, ragazzi. Ah, tranquillo. Però per noi sembra che l'hai trovato. Sì, sembrava più che stessi trovando la forchetta. Tanto, guarda, è meglio. No, non sto mangiando. Ho mangiato. È meglio tu che cerchi il microfono che Puccio che ce l'ha. Quindi, nel senso, la situazione. Ma come ha detto Marco, a proposito, 49 Gualdi in fila per sé, col resto di uno. Auguri, Gualdo. Grazie. Gualdi. Noi facemmo, ragazzi, la seconda stagione o la prima stagione di Gemme, facciamo una puntata che si chiamò 44 Gualdi. Mai dimenticare. No, never forget. Ci sono rimasto io, quindi. E gli anni passano, ragazzi. Gli anni passano. 44. Cioè, noi abbiamo fatto una cosa su 44 Gualdi quando c'hai 44 anni, esatto, e mo ce n'è 49, porco, esatto. Due comunque, a proposito di anni che passano, diciamo che oggi abbiamo annunciato una cosa che ancora non può essere annunciata. Ma che come sempre tu, esatto, ma che come abbiamo detto qualche... Vabbè, agico io allora, praticamente. No, dico comunque, come abbiamo detto insomma già 4-5 giorni fa, non so in quale trasmissione, ne stavamo parlando proprio con Francesco, mi sa, quando abbiamo fatto lo speciale di Disordinati Informati senza Michela, con Michela senza Michela. No, c'era Michela. C'era Michela, vabbè, sì, andiamo avanti con sta cosa. E insomma, abbiamo oggi ulteriormente abbiamo concluso insomma una cosa, un accordo che ci fa piacere, perché non solo riporterà un certo tipo di programma in auge, ma soprattutto riporterà una persona che noi ci teniamo molto, soprattutto in questo momento un po' di difficoltà insomma nella sua vita, che ha bisogno magari di distrarsi, quindi sono riuscito proprio a convincerlo, a chiapparlo per i capelli, e quindi oggi abbiamo fatto questo teaser annuncio che poi insomma a breve fra qualche giorno diventerà un annuncio ufficiale. Vi dico solo insomma che per chi è proprio quelli che comunque ascoltano, i fan di lui in particolare, questa M che ricampeggia, anche se il programma si chiamerà in maniera diversa, perché non sarebbe giusto nei confronti di altre persone riutilizzare i vecchi programmi. Tu hai capito, Gualdi? C'ho un'idea, ma potrebbe essere sbagliata. No, secondo me non è sbagliata. Non era una cosa proprio nostra, capito? Cioè, è una cosa dove noi andavamo, dove abbiamo lavorato anche per un anno intero, insomma, anche in esterna, se tu ti ricordi bene. Vabbè, dai, Ciccio Bombo, no? Eh sì, Ciccio Bombo, sì. Però non è che c'è non c'entra Ciccio niente. Ciccio Gamer. Vabbè, comunque, Francesco, invece tu, Francesco, visto che in merito a questa cosa della Murgia, insomma, ci hai fatto notare che c'era qualcuno che aveva da dire, insomma, cose, no, intelligenti. Ragazzi, praticamente tutti gli argomenti che avete detto adesso, io c'ho la versione complottare. Ah, incredibile. Perfetto. Allora, ricapitoliamo. Allora, pure quello di Donato dei panini, cioè no quello di Donato quello già complottare adesso, io correggo, dai, quasi tutto, quasi tutto, quello, okay. più quello. No, ritorniamo a Michela Muri, portiamo dall'ultimo perché è quello più fresco, giustamente proprio nel momento, cioè nel giorno stesso in cui fa sta annuncio, vabbè, poraccia, mi dispiace, ovviamente salta fuori dal gruppo, da Ugo Fuoco Stop Dittatura, con anche il simbolino, l'emoji del fuoco. Ma poi tutti te li vai a beccare questi, eh? Lui cerca, sì, sì, sì. Oramai ce li ho. Sto morendo, un tumore al quarto stadio. La scrittrice ed attivista politica Michela Murgia ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera di avere pochi mesi di vita. Pochi mesi di vita. La causa è un tumore al quarto stadio che ha ormai invaso tutto il corpo. La Murgia aveva già superato un tumore nel 2014, nonostante questo ha sempre propagandato i vaccini, attaccando a questo ha del grottesco. I propagandisti del mainstream, poi questo dirlo, non fornivano sempre notizie rassicuranti sui vaccini. Eppure moltissimi medici e ricercatori avevano avvertito che queste terapie geniche sperimentali avrebbero comportato la slatentizzazione di tumori superati. Ma poi chi sono sempre i famosi esperti, sempre. Sono esperti, vizi, cioè, basta. Li avevamo avvertiti, ma hanno preferito propagandare il business delle spietate multinazionali del farmaco, mettendo a repentaglio la propria vita e quella di miliardi di altri innocenti creduloni. Nel video alcuni interventi della Murgia, a seguito dei veri scienziati che ci avvertono a largo anticipo di quanto sarebbe accaduto e sta accadendo. Niente, come sempre, gente muore, è colpa del vaccino. Cioè. La cosa divertente è che sono morti miliardi di persone che non si sa dove erano. Eh sì. Mannaggia al cazzo. Ma la cosa bella. Che spesso di questi gruppi esce fuori tipo notizie a caso, cioè senza contesto, bambino morto, ragazzo sportivo morto a 8 anni, cioè non neanche va, scrivono più si è vaccinato, semplicemente è morto, però si capisce che il sottotesto è che si è vaccinato, un momento nella sua vita si è vaccinato, quindi è contro morto qualcosa giù. Contro sì. Qualsiasi cosa. No, vabbè, è chiaro che l'accanimento specificamente è sul siero sperimentale, non è contro qualcosa sì, in sì. Generale. A maggior ragione, perché comunque è una che propagandava per il vaccino, è comunque una persona relativamente scomoda, perché dice, per gente complottare, che tendenzialmente, non tutto, ma tendenzialmente, soprattutto di questo gruppo, di questa gente, è di quelli là che se gli chiedi, ma scusa, tu di che partito sei? Loro ti dicono, non sono né di destra né di sinistra, e quindi sono di destra. No, sono fasci diversi. Questa è una storia che c'è sempre stata. Ma io non sono né di destra né di sinistra. No, ma in realtà ha una sua coerenza storicamente, perché il fascismo, diciamo, a posteriori è in qualcosa di destra. In realtà è davvero quanto più simile a quello che è potuto essere è il Movimento 5 Stelle, nel senso che ci metteva dentro di tutto, cioè all'alba del fascismo c'erano tutti dentro, perché tutti quanti ci vedevano qualcosa, è davvero un'ideologia vuota in cui chiunque ci vedeva qualcosa, quindi è coerente col fatto né di destra né di sinistra, diciamo, quindi ci sta. Vabbè, invece Re Carlo? Re Carlo ovviamente re pedofilo e roba, queste cose qua, ma soprattutto voglio passare questo, ve lo passo subito in dove ve lo passo? Sì, su Dirette. Ovviamente non poteva mancare il video in cui si vede che fa una cosa strana, la palpebra. Sì, è un, come cazzo, là, un rettiliano, eccetera, eccetera. Ovviamente è un artefatto video, come tutti quanti, con scritto poi: guardate gli occhi al secondo 3, ologramma. No, questa volta è un ologramma. Alcuni invece, in altri gruppi, è la seconda palpebra del rettiliano, eccetera, eccetera. Ma poi la cosa più bella è quella che c'è scritto sotto: cioè l'incoronation di Pedo Charles, ma chi è avvenuta 6 mesi, 6 settimane e 6 giorni dalla morte della regina Elisabetta. Ma voglio discutere su sta cosa. Allora, prendiamo il dato già come c'è dato: 6 mesi, 6 settimane, 6 giorni. Sono già 7 mesi. In testa a me sì, sono 7 mesi, 2 settimane, 6 giorni. Ma poi io, visto che sono autistico su certe cose, mi sono andato a vedere e non sono neanche 6 mesi, 6 settimane, 6 giorni, perché a regina è espirata. Questo poi sappiamo che in realtà lei è espirata molto più tardi. È ispirata l'8 settembre, quindi l'anniversario dell'armistizio di Cassibile, quindi me lo ricordo da questo. E da allora sono passati praticamente 240 giorni, quindi 34 settimane e 2 giorni, che fanno tipo 7 mesi, 2 settimane e 2 giorni. Vabbè, scusa Francesca, ma non bastava di che era una cazzata, no, dovevamo fare tutto sto. Lui lo spiega. Lui lo deve spiegare. No, devo spiegare, cioè. Però lui ha fatto questi conti basandosi sulla morte presunta della regina, ma noi sappiamo che è morta dopo, quindi effettivamente allora, sono sei noi mesi sappiamo che è morta dopo, ne hanno annunciato la morte prima che morisse veramente, non il contrario? No, dopo. Ah, cioè era già morta? Sì. No, non lo so. No, è morta l'8 settembre, solo che se vogliamo davvero si va più verso fine settembre, capito? Ma noi abbiamo registrazioni della regina con, più tardi. Che ci ha telefonato cui, a noi. Per cui è vera questa cosa. Esatto. Ma considerando che... considerando che poi secondo me invece in realtà, e qui c'è il vero complotto, è che la regina era già morta una quindicina d'anni fa. No. Insieme a Berlusconi. Comunque ragazzi, io mo non vorrei dire, nel senso, al di là di tutto quello che è, vabbè, le accuse di pedofilia o di essere rettiliani che lasciano il tempo che trovano, diciamo che però in termini proprio di sanità generale i Windsor non è che siano proprio come una famiglia geneticamente a postino, ecco, io non li ho mai visti molto molto bene. Non so come posso dire. Ma io, al di là di questo, che non me ne frega manco niente, è proprio l'istituzione che è ridicola, e la famiglia che è ancora più ridicola, perché insomma, voglio dire, alla fine hanno fatto delle cotte di crude questi. No, guarda, adesso arrivata a quest'età, a quella veneranda età, eppure lui è abbastanza vecchiarello, diciamo che geneticamente stanno bene, che sono brutti, che fanno schifo. No, sono proprio brutti, ma sì, veramente sono. Sì, no, ma c'hanno proprio delle, lo dico per quello, c'hanno proprio delle tare genetiche che li rendono, cioè nemmeno nei luoghi più distopici di King's Landing ci cioè stanno mamma mia, che schifo è, eppure non si può parlare tanto di endogamie, cioè non sono esattamente gli Asburgo, no, gli Asburgo veramente certo. Erano i mostri, porca però nemmeno Filippo stava messo così bene, Filippo erano morto, cioè voglio che se reggeva davvero per degli incantesimi o qualcosa, oppure teneva una, non lo so, teneva magari batterie. Era un leech, te lo dico io. Il leech per me è Berlusconi, perché porca puttana, ogni tanto salta fuori. Ancora devo capire dove cazzo è nascosto quel flatterio, perché fin quando non lo trova, no, non può morire, cazzo. No, ma secondo me Berlusconi è imbalsamato da tempo e lo muovono. Lo muove dell'utero. Ah, io questo lo dico da tanto tempo. Puccio, tu c'hai qualche cosa da dirci? Sì, che Berlusconi nel video sembrava tantissimo Data. Se lo guardate bene, secondo me. C'era pure gli occhi gialli? Sì, sì. Un po' sì, proprio ittero. Che lo guardavo, dicevo, ma tra poco dice la roba tipo... Vabbè, tanto lo spoiler lo possiamo fare. Spero che moriremo tutti velocemente. Mi aspettavo una frase del genere mentre era lì che parlava. No, in realtà la cosa che mi ha fatto ridere tantissimo è che l'incoronazione di Carlo credo che genererà meme per i prossimi almeno 6-7 mesi, ma anche un anno. Che è il tempo che gli rimane di vita, più o meno. Sì, esatto, più o meno. Perché smetteranno di fare i meme e inizieranno a fare quelli sulla sua morte. Esatto, ma chi diventa poi re dopo? Figlio. William. Quello tra virgolette bravo, ovviamente. Il primo linea di successione. Immaginate gli altri. Infatti. No, cioè sono stati fatti una marea di ridoppiaggi, meme, videocomici, vignette. Cioè, credo internet è veramente esplosa come non vedevo da tempo. Vabbè, io guarda, l'unica cosa che dico veramente è che c'è sta la madre che da lassù se lo sta a guardare e dice: ma tu sei vecchio, quanto sei vecchio, mio, ce l'ho fatta a fare diventare re non più te lontano la sei possibile. Goduta, esatto. Merda, esatto, maledetto. Ho sempre cercato di fare del tutto per non farti diventare re. Però poi lei è l'artefice di tutto quello che è successo, già da quando in qualche modo ha imposto un matrimonio che non voleva nessuno. Parlo ovviamente di quello tra lui e Lady Diana, no? Che poi è quello che i sudditi non gli rinfacceranno a vita, perché ha distrutto quella che, diciamo, simbolicamente era la giovane donna, il simbolo pulito, no? Lei piace molto anche ai complottisti, perché mo pure video la vera regina, quella che voleva, perché ovviamente poi è morta a causa del complotto, quindi pure voi, se avete visto le immagini, ma anche a voi Kate, no? La moglie del principe regna, ma non vi sembra tantissimo Robocop? Cioè, veramente come dai, una è Data, l'altra è Robocop. Sì, no, ma tipo è come se l'avessero costruita per fare quel ruolo, è una roba, cioè io capisco che avrà studiato e in parte sarà, come vi posso dire, anche una cosa per cui si sta applicando, ma a me fa impressione, cioè fa veramente spavento. Ma ti ricordi che all'inizio si diceva proprio che lei era praticamente nata e cresciuta con quello scopo nella vita? Sì, ma hanno pure detto delle cose abbastanza vergognose, tipo i genitori gliel'hanno tirata nel letto quando andavano all'università. Ma non mi stupirei, in quei, guarda, Berlusconi, raga, quelle sono famiglie che nascono quel tipo di cultura, in quel contesto. Mo, al di là del discorso di Diana che facevate prima, che in effetti cioè alla fine poveraccia pure, nel senso, comunque, Diana ha subito un matrimonio in cui lei è dovuta essere praticamente la vittima da ingravidare, perché Carlo d'Inghilterra con la sua Camilla ci stava in fissa da ben prima. Sì infatti, vabbè, ma lei comunque come gusto so gusto, sì, ma lei comunque i figli li ha avuti, cioè a me di tutta sta storia la cosa che fa pena è il marito di lei, poverino. Marito di lei, chi? Scusa? Di Camilla. Ah, sì, sì, che tristezza, perché, sì, che tristezza, posso dire, sì, cioè, vero, assolutamente. Allora, quel poveretto, secondo me, sono d'accordo con te. Comunque, diciamo che come cioè, la famiglia reale delle zozzerie ne ha fatte tante, sia fra di loro che verso l'esterno. E quando si parla dei complotti, lì veramente altro che complotti, cioè lì hanno veramente manipolato la vita della gente in maniera veramente brusca. E io, cioè, nel senso, non ho mai iper simpatizzato per Diana, cioè nel senso, non è che cioè, perché secondo me pure lei c'aveva i suoi, però devo dire la verità che è veramente quello che ha dovuto vivere qua la donna, penso sia sì, stata, sì, l'umiliazione che ha dovuto subire da un marito che palesemente non se l'è mai inculata, voglio dire. E poi quando gli è partita la brocca hanno fatta fuori, insomma, che poi esatto. Questo è successo. Sì, esatto, vabbè, anche in malo modo, comunque, vabbè. Vabbè. Insomma, è la monarchia in generale che è anacronistica e da biasimare, insomma, non è questa famiglia reale in particolare, è proprio no, ritornerà di moda, te lo dico io. Sì, ha detto Emanuele Filiberto. No, potrebbe esserci anche Giorgia prima, quindi. Questa è l'idea. Ah, tu dici nel senso l'importante la monarchia tornerà di moda in generale. In generale. Cioè, okay. Sì, no, ma per me la porno fa pure Giorgia prima, basta che diciamo, faccia la fine di Umberto primo, questo gli auguro. O di Luigi XVI, anche. Maria Troietta, ma anche dello zar, volendo, insomma, anche lì. Ma la famosa Maria Troietta, cioè. Perché voi dovete capire che Romanov. Alla fine in Russia sono andati, non ci sono andati per sottile, cioè hanno detto io non è che ti ammazzo a te, io ti ammazzo tutte e tre le generazioni, così almeno elimino la linea di successione. anche quelli prima, cioè nel senso, da scavare le tombe e l'hanno buttati via, proprio, nel senso, questi insomma esistiti. Ecco, allora quel caso lì. E mo ce n'hanno un altro. Ma avete sentito il monologo che ha fatto Chris Rock, non so su quale TV americana, sulla questione della famiglia reale inglese? Però lui è partito dalle dichiarazioni di Meghan Markle, la sposa del figlio minore, che ha detto: io non pensavo che la famiglia reale inglese potesse essere razzista. Anche lui è arrivato Harry in camera, sì, ha fatto non è che sono razzisti, probabilmente il razzismo l'hanno inventato loro, cioè, un trademark della famiglia. Come hai fatto a stupirti di questa cosa? Mi hanno chiesto se il bambino avrebbe potuto essere più o meno scuro. Vabbè, ma quello te l'avrebbe anche chiesto mia madre, che è di colore, perché sono fatti così, non ti dovevi impressionare. Va spiegato una cosa che non a tutti è palesemente evidente, che Meghan Markle effettivamente è nera, cioè nel senso lei praticamente è una nera albina, nel senso che comunque etnicamente è di colore, anche se non, per quello dico, non si direbbe, però lo è. Ah, sempre, io li ho sempre visto questi tratti più sudamericani che afroamerica. Boh, vabbè, no. Stiamo entrando nell'antropologia. Ce ne frega un cazzo. Vabbè. Gualdi, tu invece che ci hai regalato questa settimana? No, ma io ho fatto una piccola collezione di belle notizie dalla quale noi potremmo dire alcune cose, del tipo questa notizia dal Fatto: fermate il donatore seriale di sperma, ha più di 500 figli, cioè, che parliamone un secondo, cioè questo lui dona o sperma, mica sta a fan crimine, cioè. Non so, però cioè, il problema è che in certi ambienti ristretti poi arrivano le tare genetiche, appunto, cioè la gente, fratelli e sorelle inconsapevoli si scopano tra loro dopo, Fa sorellastre, già non so fratelli, sono fratellastre, dai, cioè, poi comunque magari 500, dai, può succedere, ma uno o due casi potrebbe succedere. Poi in realtà non ho capito se questa donazione è avvenuta in un solo posto, in un solo ospedale o in più. In una sola regione, da quello che ho capito. E tra l'altro ci sono dei limiti legali, tipo che tu in un arco di non so quante centinaia di chilometri quadri puoi donare soltanto 8 volte. Beh, certo, per evitare è anche limiti. Giusto, certo, certo, certo. Non puoi. Ma poi non ho capito, questa forma di donazione è a titolo gratuito, lo si fa per soldi? No, oddio, dipende. Cioè ci sono tutte e due le opzioni. Non so se vi ricordate una cosa che fa ridere ma in realtà non dovrebbe. Nella prima puntata di The Big Bang Theory, o una delle prime, Leonard e Sheldon vanno a fare la donazione, sì, dello sperma, e dicono che saranno pagati perché loro sono molto intelligenti, hanno un QI molto alto. E vabbè, però se lì è in America è un sistema diverso. No, esiste anche in Europa, non in Italia, per tutta una serie di motivi. Però quel tipo di commercio in altri paesi d'Europa c'è, sicuramente in Francia, cioè, vabbè, gli inglesi ormai non fanno più parte della grande famiglia, però in UK erano famosi per questa cosa, che potevano scegliere i tratti caratteristici del donatore, tra cui il quoziente intellettivo. No, io vorrei però, cioè, vorrei fare un'osservazione con voi e coinvolgervi in questa osservazione, che mentre una trentina, quarantina anni fa, insomma, diciamo, tu andavi a fare la donazione dello sperma perché ti facevi una pippa gratis, oggi non c'è bisogno, cioè nel senso, oggi il porno è gratis ovunque, quindi non c'è bisogno di andare a fare 500 donazioni di sperma e fare 500 pippe, ragazzi. Sono 500 pippe, sono tante. In quanto ma tempo? Non so cosa scatta nella mente di uno che dona, non lo so. Io che sono la cosa più lontana dall'istinto genitoriale che esista, maggior ragione penso che sarebbe agghiacciante pensare di lasciare qualcosa di mio. No, ma in realtà per molti piuttosto per prati, cioè vogliono sapere di avere dei figli, ma non vogliono avere il peso di doverli crescere, tra virgolette. Ah no, io invece voglio proprio avere la consapevolezza di non essermi riprodotto, mi sembra molto più nobile. Ma questo è quello che quella pensi non tu. Ce l'avrei mai, Walter. Tecnicamente voglio dire, vabbè, insomma, vabbè. Nel senso che tu pensi, però magari di tracce allora, genetiche nato, sparse la di tua qua e di là è che come noi potrebbe... sei un morto di fame, esatto. Altrimenti avrebbero chi è? So tuo figlio, e invece non succederà mai. Perché grazie, fortunatamente oppure, siamo Walter, tutti morti poi, di fame. Che poi è quello che è successo al poro Jean-Luc Picard, certo, sommato, insomma, quindi scusa, dicevi Puccio? No, dicevo, potreste sempre avere un incidente col teletrasporto come Riker e moltiplicare. Come Kirk, cioè vanno molto di moda. Sì, vabbè, però quello è un fratello, non è un figlio. No, è un clone. Vabbè, però diciamo da un punto di vista formale è più vicino ad essere un fratello, un gemello che un erede. È insomma. un figlieglio. Figlieglio. Guardi, dacci un'altra notizia meravigliosa. Non è una notizia, ma è un commento preso da una pagina della nostra città che regala tante cose, tra cui questa ragazza che ha avuto una brutta avventura e scrive: ci vuole un po' di pazienza, doveva essere interpretata. Vorrei dire alla persona che ha lasciato il foglietto d'amore sui vetri della mia macchina: se sbaglio pago, ma le offese le giro a lui. Si guardasse le sue emoticon delle mani con le corna. Non mi conosce e per questo si ritenga fortunato. Cuore cattivo, emoticon di un cuore nero. Non merita nulla. Merita nulla. Dio spesso è ingiusto, ma prima o poi arriva. Emoticon di mani che pregano. Io. Emoticon ma, di cioè, ma io non ho capito, cioè tu sei tu ci traduci le emoticon o c'è scritto? No, quando dico emoticon ti dico l'emoticon qualcuno... che c'è. Ah, okay. Pensavo che c'era qualcuno che No. Ok, quindi cuore nero. Cuore tutto nero. Questo ma... perché fatto bravo. Non si sa. A che cosa? Dove l'hai trovato sto messaggio? Su una pagina di 6 di Monterotondo 6. Che... Ah, ok. Sì. Quindi qualcuno gli ha lasciato un messaggio d'amore. Ma d'amore è tipo a troia, mignotta, cose del genere. Ah, il messaggio d'amore in quel senso là. Sì, penso di sì. Tra virgolette, sì, perché visto quanto si era incazzata, evidentemente gli ha dato della bagascia. Chi era questa così? Cioè anche non senti, mi hanno detto che... Senti, ma qui su Monterotondo 6, dicono che... Se la dai, esatto. Oh, che tristezza, esatto, siamo grevi. Invece devo raccontare una cosa, non la racconto in maniera troppo esplicita perché c'è un'attività commerciale dalle nostre parti che vende la pizza, è un po' napoletano, un po' romano, ok? Che noi abbiamo usufruito di questo servizio per 3 volte, ritorniamo nel coso di Google, no? Cioè nel senso delle recensioni. Allora, però giustamente, fermo restando che il prodotto è buono, è un po' una sorta di comportamento collaterale che ci ha dato fastidio. E allora Michele ha scritto una recensione, giustamente. Oh, questo la sta stalkerà fino alla morte, cioè alla fine l'ha dovuto bloccare da tutte le parti, per questo voleva a tutti i costi che lei cancellasse la recensione da Google, perché sennò gli rovinava la media. Quante palle gli ha messo su 5? No, poi Michele è stata pure generosa, gli ha messo 3 stelle, io gli ho messo 2, cioè nel senso, anche perché il problema è, ritornavo un po' al discorso di Donato che facevamo all'inizio, è che questi personaggi che diventano poi personaggi anche commerciali sui social, quindi tramite TikTok, se riescono a superare il fatto che poi diventano popolari e quindi rimangono con il giusto comportamento con il quale tu dovresti fare come un commerciante, è una cosa. Se tu poi pensi di essere pure un fenomeno, perché pensi di essere un fenomeno, a quel punto, a Roma si dice sto cazzo, esatto, se senti sto cazzo. Allora, siccome lo stanno a bombardare di merda sto tizio, a me dispiace, perché poi il prodotto che fa è buono, cioè devo dire che è buono, però se io vengo lì e tu mi tratti de merda, oppure mi mandi un prodotto piuttosto che un altro, oppure un'altra volta quello fuori dalla porta, no, devi aprire le pizze e devi vedere se sono le sue. Gli ho detto, ma scusi, ma io qua fuori dalla porta devo aprire le pizze? E devo, sì, se no il principale si incazza. Ma che cazzo, ma non glielo dire il principale? Cioè, ma io dico, no, ma scusa, che vuol dire? Non controlli tu, devo controllare io. Anche io devo controllare, capito? Io devo aprire le pizze de fuori casa, manco di dentro casa, devo aprire le pizze, quindi dopo le devo richiudere, me le devo portare dentro casa per vedere se le pizze sono... No, vuoi mettere la, cosa, di queste non sono le pizze mie, cioè spuri dentro e gli ridai. Esatto. Cioè, vuoi mettere sta cosa. Esatto. Ma falla di al principale tuo. Esatto. E vabbè. Esatto. Come diceva Celentano, l'additivo segreto. L'additivo segreto, infatti. Poi giustamente però, quando poi si... E l'ultima volta ci siamo andati, perché 3 volte, no? La terza volta... Michela va là, prende la pizza in teglia e gli dice, vabbè, dato che me la puoi scaldare? No, non te la posso scaldare, perché poi il principale si incazza, perché fra un po' bisogna preparare le pizze da asporto. Gli dico, vabbè, ma che cazzo me ne frega a me, scusa, cioè nel senso, io ti compro la pizza, te sto a pagare e tu non me la scalli, perché sennò il principale si incazza. Cioè, per scaldarla ci vuole un minuto e 30 secondi. Sempre questo, cioè, personaggio, sempre lui, ormai è diventato un fenomeno. Allora, giustamente, perché la terza volta che è successo comunque qualcosa di... No, no, ma lui ha scritto la recensione sia su Facebook che su Google. Non puoi capire. Cioè, proprio, la voi non vi rendete conto, rovinate cioè, ma a parte che te stanno riempite in merda, perché poi è normale, perché quando poi tu diventi fenomeno, pure sui social, se fai lo stronzo, già la gente ti torna indietro, è normale. Cioè, nel senso, già la gente descrive la merda a prescindere, perché oramai è... Ma se tu più fai pure lo stronzo, ma ti moltiplica la merda, no? E quindi, vabbè, cioè, nel senso... Ecco, insomma, volevo dire che si è passati da queste parti e io non ho colto, ho cercato di leggere tra le righe quale attività potesse essere. È recente, non, è recente, non per dirlo, è recente. Però, è recente. Vende cose molto fine? È recente. Vende cose molto fine? Vende la pizza, però lui è un po' napoletano e un po' romano. Questa è la parte napoletana. Che... No, non è una questione. Però ecco, diciamo è che... quella questione razziale. È questione del razzismo. Sì. Assolutamente. Vabbè, niente. Comunque, per farvi capire, insomma, che purtroppo alla fine tante volte quando si trovano le recensioni a noi ci fanno ridere per come sono scritte, però può anche succedere, cioè a parte che c'è lo stronzo che deve mettere la recensione, è chiuso una stella, cioè nel senso, ma se tu sei andato il giorno che è chiuso, perché devi romper cazzo, no? Infatti, quello che... Però sono andato al giorno di chiusura ed era chiuso, ed era una stella esatto, invece è d'essere da 5 perché sono coerenti. Però a volte può succedere che tu vai in un posto, succede un qualcosa che a te comunque ti lascia un disagio, non sei contento, oppure raga, poi alla fine quando si tratta di spendere soldi per mangiare, che sei andato al ristorante, cioè se tu poi dopo non vivi l'esperienza da tranquillo come vorresti, che hai mangiato, non ti dico strabene roba genere, ma c'è qualcosa che non va, te ce rode il culo, perché alla fine io ho pagato, cioè, ma tu non, capito? Quindi ecco, sa, questi fanno fanno delle cose, dei comportamenti, perché se sentono già dei fenomeni, capito qual è il problema? Questa è diciamo la generazione dei la famosa generazione dei fenomeni, ma nel senso brutto. Generazione di fenomeni siamo noi. Sì, prego Gualdi, stai finendo. No, c'è un'altra notizia che si ricollega in maniera molto diciamo, dai, poi torniamo a Walter e laterale, poi facciamo con un giro con quella che faceva, che c'ha 500 figli sparsi per la stessa parte. Abbandona i 4 figli in strada, 2 neonati, per fare rispetto alla moglie con cui è litigato, denunciato. Ok, beh, giustamente anche. Cioè, però fammi capire, cioè lui stava a casa, ha litigato con la moglie, quindi ha preso questi 4 figli e l'ha abbandonati per strada. No, semplicemente stava andando in giro, li ha lasciati. Adesso non posso cliccare perché ho solo lo screen. E soprattutto però, perché non vuoi. Perché non voglio. Esatto. Perché, questo è il messaggero, ragazzi. Proprio non li clicco neanche se mi pagano. Anche a voi è capitato di lasciare 4 figli per dispetto? No, però. O io, per dispetto qualche altra cosa. Però io non voglio far vedere che il Monte Rotondo è il mondo intero. Però insomma, noi è Rapanui, è l'ombelico del mondo. Noi qua di fronte, proprio di fronte a casa nostra, nello stesso punto dove c'erano le butane, dopo che sono state mandate via le butane, è arrivata la tizia, te la ricordi, quella c'ha 5, 6, 7 figli. Esatto. Che praticamente. Cioè, anche lei. Siccome che lei stava sempre su lei un balcone. Al contrario, lei era la donatrice di ovuli invece. Esatto. Okay, perfetto. Cioè, lei praticamente, siccome stava sempre sul balcone a parlare WhatsApp, a raccontare i cazzi sua al mondo strillando. Cioè, quindi involontariamente noi ci conosciamo tutta quanta la storia. Questa c'ha 6 figli fatti con 5 mariti, cioè 5 uomini diversi. E che poi lei ammetteva tranquillamente che per lei erano comunque degli assegni di mantenimento, sti ragazzini. Cioè, nel senso. Cioè, alla fine. Quindi cioè, lei ne fregava un cazzo, capito? E poi che non c'era un gran rapporto all'interno di quella famiglia, anche se non è che litigavano, facevano chissà, che proprio si ignoravano fra di loro. L'ho capito, insomma, il giorno in cui il ragazzino di 8 anni ha citofonato, lei gli ha risposto e gli ha detto: porco de qua, ma stai a fali. E lì, insomma, ho capito che la cosa che la dava in questa famiglia. Però ecco, era un po' disfunzionale. Sì. Ma poi c'era tutta sta sfilza di uomini che se venivano a pia ognuno a testa, un fio a testa praticamente, per portarli. Che non era detto che fosse il proprio, ne prendevano uno. E lei nel mentre su WhatsApp stava ancora a tacchinare con altra gente. Certo. Perché lei è una donatrice di ovuli. No, lei faceva figli e poi chiedeva i mantenimenti. Cioè, così faceva. Incredibile, ragazzi. Cioè, c'è gente che ci campa. Cioè, ho capito quello che te pare. E qui vengo poi alla tesi de Sbano. Cioè, nel senso, preferisco non lasciare tracce, cioè, da sto punto di vista. Perché, cioè, nel senso, sì, ok, che ogni figlio è un mantenimento. Però so sempre. Cioè, devi sgravare 6 volte. Cioè, c'è gente che piace. E poi dopo comunque te li devi gestire, sti figli. Cioè, questi te cagano, te pisciano, te mangiano dentro casa. Cioè. Ma comunque un modello di business, cioè, fallimentare, perché pure metti che riesci a gestirti in qualche modo, anche l'ultimo figlio che hai fatto farà 18 anni, se spera che compiere 18 anni diventerà maggiore, eccetera eccetera, dopo che cazzo di mantenimento ti arriva? Per questo continua a farne, sì, però dopo un po', cioè, dopo una certa levaia. Lo so. Ma poi dopo lì parti con la prostituzione, insomma. Direttamente, sì, dice, perché trovi sempre qualche cliente che gli piace. Sì. O fai prostituire figli, perché capirai. Cioè, Babbo, Walter, c'hai un'ultima chicca? Poi faccio. Ma sì, perché mi voglio agganciare al discorso delle recensioni. Guarda, questo è proprio per. Ma che gancio incredibile! Oggi uno scrittore emergente italiano che si chiama Jonathan Bazzi ha postato su Twitter un'immagine di un acquisto di prodotti gastronomici a domicilio. Con questa descrizione, io dopo in chat diretta da Antenna Radio metto link al post così vi rendete conto. Nuova panetteria gastronomia a Milano in Porta Venezia. 2 piatti così, take away, 43 euro. E io vi vado a mettere adesso la foto. Ma è davvero. Vorrei il parere autorevole, per esempio, del nostro Simone Pizzi, che è un fine gourmet. Ti arrivano 2 piatti del genere a 43 euro. Tu che fai? Aspetta, non ho caricato il bip delle bestemmie. Esatto. Vabbè, comunque Milano stanno. Capite che è normale che poi io non solo ti recensisco male, ma cioè No, ma capito, 42 no? euro, ragazzi, che cazzo stiamo a parlare? Già, per me è inaccettabile la cosa lì della pizza. Aspetta, se ho il segreto, ho capito perché. Ah, vai, vai. Perché è a Milano, ma è Porta Venezia. Quindi secondo me c'è Venezia, c'è un inception. Venezia, giusto, giusto, hai ragione. Allora vabbè, allora è tutto lecito. Siamo noi a non aver capito. C'è una spiegazione. Poi glielo scriviamo, caro Bazzi, non hai capito, era giustamente la Porta Venezia, quindi pensa, se ti sedevi al tavolo la pagavi 150 euro. Grazie, infatti. Infatti. Pensa che il tavolo, cioè, le sedie c'hanno una mano. Di Che se ti siedi al tavolo c'è il moltiplicatore per due come il flipper, è una cosa. Esatto. No, in realtà sul, se bumper, tu siedi al tavolo a Venezia e c'è il tassare, è come il tassì, capito, cioè? Esatto, me. Bravo, esatto, quello sta, cioè che cresce man mano che stai seduto praticamente, quindi cioè, quant'è che sta lì che il signore 20 minuti? Ah, tin, tin, tin, tin. Io c'ho 20 esatto. euro, quanto posso stare seduto? Non stai seduto. Non stai seduto. 20, non puoi, 20 euro non puoi stare seduto, no, puoi permetterti di andare il tramezzino, donna e pomodoro e però poi pisci al bagno con 20 esatto. euro te fai lì è tosta dici te. Considerando vabbè, l'ospitalità cioè, scusi posso andare al bagno è rotto 20 euro è rotto, però poi puoi pisciare per terra, tanto poi troveranno io poi ci trovi la turca dove famosa turca che ti bestemmi perché gli piscerò addosso. Certo, insomma, mamma le turche, esatto. Vi consiglio ragazzi di ascoltare la meravigliosa puntata di Runtime by Night, insomma intitolata La Spagnola, e non vi dico perché, insomma. Si parla di turche. Intanto Libra in chat, che salutiamo, ci dice: non si capisce neanche che roba è. Ma guarda, una potrebbe essere una melanzana arrotolata impanata, una mozzarella in carrozza, non lo so, però sono vergognoso. Una specie di crostino con sopra probabilmente del gorgonzola, delle noci, allora, e sì. del radicchio. Allora, quello a sinistra, cioè il colore del che è radicchio, quello? Il colore, sì, sì. È abbastanza inquietante, devo dire. O cipolla caramellata. In ogni caso non l'avrei mai sfiorato con la bocca. Quella a destra penso che sia tipo una quello chiama? Sotto è una cosa panata, non una, so. La polenta. Quella a destra non capisco. Zero. Quella a destra penso che sia, quella quadrata penso sia un pezzo di polenta, può essere? No, potrebbe, no, quella però... quadrata mi sa. Secondo me è una cozza gratinata quella. Mozzarella in carrozza. Non lo so, comunque ragazzi, non mi sarei mai glielo sarei andato, mi sarei vestito, l'avrei messo nella sua bella scatolina e sarei andato a riportarglielo. Ma i piatti gliel'hanno regalati o sono i suoi? No, credo siano i suoi, perché era, credo sia stato un delivery, credo. Quello mi pare il piatto, il tipico piatto di casa, non credo. Poi, insomma, Marco, ma che ha scritto take away, magari l'apprezzo là. Magari è compreso anche il servizio dei piatti, però che ne sai? Cioè, ci sarà qualche cosa che giustifica, no? Insomma, ma guarda, mi devi dare tutta la batteria da cucina con la col fondo Shimano, fuso, col che fondo fuso alto un centimetro, ovviamente, certo. Vabbè. Vabbè, comunque era perché faceva il paio col ragionamento che stavate facendo. Tra l'altro una studentessa, una ragazza, si è messa a fare tipo sti flash mob che qua a tenda sta, non mi ricordo dove. A Milano? A Milano, sì, perché là davvero, sì, che là davvero c'è, cioè, gli affitti sono folli, voglio. Ma pure Bologna, ma io penso, poi a Roma, io penso che gli affitti per gli studenti fuori sede sono da denuncia. Poi quasi sempre tutti in nero, eccetera, eccetera. Io penso che a Milano hanno perso un po' il controllo, cioè si sono veramente, si è creata sta cultura, sta bolla, sì, ma proprio strana, perché comunque anche se tu vedi un po', cioè cercando insomma dei capi, quelli che un po' investigano, veramente c'è questa cosa del dove essere ricchi, del dove essere, capito, fa vedere, e quindi automaticamente tutto diventa esponenziale. Se tu a Milano apri un locale che appunto a 50 euro gli dai un pezzo di polenta fritta, la gente dice viene, cioè quella è la cosa incredibile. Poi dopo ci sarà pure qualcuno che si scandalizzerà, ma sta sicuro che qualcuno dice viene. Comunque vabbè, dai, cambiando un po' discorso invece, Buccio, scusa, vai Francesco. Avevo concluso, caro Buccio, invece insomma ci sono degli eventi pubblici dove, che ne so, c'è una commissione tra estrema destra e antisemita e videogiochi, insomma, abbiamo visto oggi, insomma. Questa è una storia vecchia che la scopre adesso. Io la scopro adesso. Chiariamo al pubblico. Allora, Simone ha beccato con 3 mesi di ritardo dell'invasione, esatto. sul palco. Ma non è tanto l'invasione che mi ha fatto, che è che nessuno dice, cioè è tutto a posto, cioè nel senso, nessuno diceva niente, tutto sommato. No, più che altro non si è ancora capito, e ancora effettivamente non si sa come questa persona sia riuscita a eludere praticamente tutti i sistemi di sicurezza dei Game Awards ad arrivare sul palco. E tra l'altro, come è possibile che le persone sul palco non si fossero accorte che questo non era il presentatore? Perché lui ha preso il microfono, ha salutato, ha ringraziato Bill Clinton, che poi si è scoperto essere non il l'ex presidente degli Stati Uniti, ma l'insegnante di Torah, quindi di per dire mitologia ebraica, è un'altra cosa, di filosofia ebraica. E niente, lui è arrivato lì, ha salutato, poi è diventato anche famoso, adesso c'ha un podcast e un canale TikTok molto seguito. Non l'hanno arrestato, no, no, vabbè, sì, ma è stato 3 ore in galera, l'hanno rilasciato subito. E beh, diciamo che la situazione è abbastanza preoccupante, soprattutto perché avete visto, insomma, in Texas ficcano sotto la gente oppure sparano tranquillamente dentro i centri commerciali, ma oramai abbiamo capito che veramente la situazione lì è completamente fuori controllo, insomma. In alcuni stati rischiano pure il default, so. Vabbè. No, vabbè, quello lo rischiano ad ogni amministrazione. Esatto, esatto. Amministrazione. Pure Bush, pure sì, Bush, pure, no, pure Obama, Clinton, Obama, pure Trump, pure Obama, tutti. Comunque, se la cosa ha un peso, ma immagino sia molto relativa, io in tutti gli anni che ho lavorato con colleghi oltreoceano sono sempre stati molti di più quelli che dall'Italia sono andati a lavorare negli Stati Uniti, e il processo inverso non è quasi mai avvenuto. Io negli ultimi anni, diciamo dal 2016 in poi, sto guardando colleghi che vivevano negli Stati Uniti o che ci sono nati e cresciuti che vogliono venire a lavorare in Europa. Non so quanto sia indice di salute e di qualità della vita, mettiamola ma così. Io, guarda, sulla salute e la qualità della vita non ci ho mai discusso di tanto. Mi dirai che chiaramente l'America, per tipo di sistema che c'è e anche per tipo di guadagni che si ottengono con gli stipendi medi, che comunque sono proporzionati anche al costo della vita, diciamo che ti permette di costruirti una vita se tu sei in una condizione regolare, cioè nel senso, tu comunque c'hai la green card, c'hai un lavoro abbastanza stabile, hai comunque delle credenziali bancarie, in America campi bene, cioè fondamentalmente. Però poi ovvio che tu il giorno in cui porti tu via al centro commerciale a comprare i nuovi leggings e arriva il tizio con l'arma con l'arma automatica e qui ci spara a tutti, te può di bene, te può di male. Insomma, diciamo che è abbastanza inquietante il fatto che tu a volte, magari secondo me poi dopo arrivi a un punto in cui fai finta di non pensarci, però c'è voi dici, il problema c'è. Tu calcola che c'è questa scena in cui escono tutti quanti dal centro commerciale con le mani alzate, e mio padre ha visto questa scena e ha detto: ma come mai stanno tutti con le mani alzate? Fatto, così pregano. Perché sanno come funziona, cioè sono preparati che in caso di sparatoria tu devi abbandonare il luogo con le mani alzate, sennò la polizia ti spara, cioè quindi già sanno, cioè vanno preparati, quindi questa cosa è inquietante. Perché i bambini giapponesi si preparano ai terremoti, esatto. Quegli americani si preparano alle sparatorie. Ma tu c'è scherzi, ma è così, cioè. No, io non c'è scherzo, no, quello è il problema. No, io che seguo un po' di account Twitter di gente che sta in America, io sto leggendo mogli di colleghi in realtà che stanno dicendo: io faccio le foto a mio figlio prima che va a scuola perché voglio ricordarmi come è vestito, perché no, vabbè, se in televisione se deve identificare il corpo, so com'era, è abbastanza. Un'altra che ha scritto oggi una roba che mi ha fatto riflettere, dice: se io fossi repubblicana, e non lo sono, non sarei preoccupata del fatto che insegnino a miei figli la parità di genere, a rispettare gli omosessuali, eccetera eccetera, sarei preoccupata che mio figlio possa morire ucciso per un colpo di pistola mentre sta a scuola, perché invece quando sta per strada no, oddio, al centro commerciale. Pare che il problema serio siano quelle nei luoghi di ritrovo, quelli dei giovani, perché poi se vai a vedere l'età media degli sparanti è abbastanza bassa. Sì, poi si sta abbassando sempre di più, tra l'altro. E anche i due casi che ci sono stati in Bulgaria. Negli Stati Uniti hanno avuto problemi con gli anziani, tra virgolette, nelle ultime settimane. Sì. Perché uno l'ha visto un ragazzino che bussava, semplicemente aveva sbagliato porta e gli ha sparato. Gli ha sparato, sì, sì. Ma pare che questo proprio bene di testa non ci sta. È un altro caso. Allora, scusa, ragazzi, cioè il problema che il matto ci possa essere. Però c'è le armi, capito? Cioè, il problema è che in Italia si chiama secondo emendamento, raga. Sì, sì, però sta cosa del secondo emendamento, che è una cosa fatta 300 anni fa per ragioni anche oggettive. Per ragioni oggettive, perché comunque in un paese enorme dove non c'era la legge, non c'era la possibilità di penetrare con dei corpi di polizia, soprattutto verso la frontiera, verso l'Occidente, no? Cioè, è ovvio che ci stava che nella Costituzione americana la gente fosse nelle condizioni, messa nelle condizioni di potersi difendere dal primo stronzo che boccava dentro casa. Ma oggi... Ma poi il problema non è averci la pistola, il problema è averci le armi automatiche, a gente cui fucili d'assalto, cioè quella è la cosa che è ancora più inquietante, capisci? Cioè, perché poi dopo, cioè tu, è matto, perché c'ha quell'arma? Perché in Italia sta cosa è estremamente limitata, perché veramente che la persona riesce ad arrivare a delle armi da fuoco non è così alla portata di mano, anche se poi... Cioè vorrebbero, no? Perché qui noi andiamo indietro invece di andare avanti, no? Quindi è un po' inquietante sta cosa. Ma avete visto cosa gli ha scritto Stephen King a un tipo dell'NRA che ha scritto: è stupido parlare di armi automatiche perché le armi non sparano da sole, il problema sono le persone. Stephen King ha risposto: prova ad ammazzare 20 persone con un coltello, ti si stanca il braccio. Sì, sì, ma anche con una pistola, cioè nel senso che non è c'hai 20 a carica automatica, no? Cioè nel senso comunque ogni volta devi premere il grilletto, una cosa è tu stai lì, premi il grilletto, quella spara da sola e cominci a farci alla gente. Comunque Luca dice che in America con 30.000 dollari all'anno insomma sei sulla soglia della povertà. Certo, infatti con 45 stai sotto la soglia di povertà, ve lo dico per quando la media di stipendi americani è ben superiore in generale, cioè, ma perché ovviamente in un posto dove l'affitto di casa è di 2.000-3.000 euro al mese, cioè chiaramente gli stipendi sono proporzionati. Se il problema è che in America stai un mese senza lavoro, perdi tutto, di solito le assicurazioni sanitarie e quelle che ti coprono il mutuo eccetera lavoro, sono tutte fornite dalle aziende per cui lavori, per cui perdi il lavoro in proporzione, tu un mese sei fottuto. Lo so, quello è il sistema. Sì, tutto in parte. Loro poi hanno questo sistema della pensione, quello che chiamano il 401.000, che in pratica tu dovresti aver messo da parte 401.000 dollari in 8 anni, perché negli investimenti dei fondi pensione nel corso degli anni portano quella cifra a 3 milioni e qualcosa con cui ti paghi la pensione. Questo se il mercato cresce a quel ritmo tutti gli anni, basta che ci sia un anno in negativo e ti devi fare 10 anni di lavoro in più. Cioè sono sistemi folli che sono basati su previsioni molto ottimistiche. È vero pure che un americano è abituato comunque a tenere al pizzo X soldi, perché il giorno in cui sa che magari perde il lavoro e deve sta 3 mesi senza comunque sa che quel piccolo gruzzolo d'emergenza ce lo deve avere sempre, no? Nel senso, poi è chiaro ma già stai parlando di una classe media abbastanza assottigliata negli ultimi decenni, Simo? Sì, ma è chiaro che adesso un po' le cose sono cambiate, però in generale comunque in proporzione, ribadisco, cioè secondo me è tutto molto legato anche alla qualità del tenore del potere d'acquisto, che da noi cioè, sono delle cose che sono completamente folli, cioè se tu vai a vedere comunque i prezzi che c'hanno in America, per noi sono completamente fuoridimensionati, ma per loro sono dimensionati perché in proporzione gli stipendi sono quelli. Poi è chiaro che il disgraziato Nigga che ovviamente fa fatica a trovare lavoro, si deve accontentare, fa il miserabile a 1.500 dollari al mese, però cioè, purtroppo queste poi sono condizioni che ci stanno anche da noi. Vabbè ragazzi, io direi concludiamo un attimo con l'ultimo giro, con una cosa per tutti quanti, partendo da Gualdi, tu so che ce l'hai in un'altra cosa, ce l'avevi lì parte da Gerda, perché non mi funziona il cellulare, parti da parto da Sbano allora. No, io approfitto invece per leggere il commento di Luca S e poi lascio il microfono. Allora dice, Luca ci consiglia, guardatevi John Oliver su HBO, ogni settimana parla di qualche problema degli Stati Uniti, è allucinante, ti fottono su tutto, dalle case alle vacanze, ai prestiti, è una società in declino. Sì, ma infatti stanno cominciando a scoppiare le banche, ragazzi, io non sono molto tranquillo, perché immagino che quando il merdone... Sì, il bozzo sotto al tappeto, sotto il quale hanno nascosto i problemi, è diventato talmente gonfio che ci stanno inciampando, e loro avranno due strade a quel punto: o effettivamente fare i conti con il loro debito pubblico e con i problemi strutturali che hanno, o riversare sull'Europa i loro problemi. Vabbè, staremo infatti, a vedere. Infatti hanno già iniziato. Vabbè, loro c'hanno il problema del fatto che ora hanno i tassi di interesse molto positivi, quando per anni li hanno avuti negativi, cioè quei fallimenti di banche che abbiamo visto, compreso il primo di Silicon Valley, dipendevano dal fatto che loro ci avevano investito tutto in prodotti che producevano liquidità a patto che i tassi di interesse fossero bassi o negativi. Nel momento che sono diventati alti, tutto in un botto, perché è stato letteralmente la giornata, che è quello che sta succedendo pure da noi, abbiamo preso gli schiaffi, ma quello è un problema di banche private che hanno investito in quel modo. Il problema degli americani è che fino a qualche anno fa loro avevano la banca dove tenevi il conto corrente e la banca che invece fa gli investimenti in borsa, che dovevano essere separate, e da qualche anno hanno ripreso a fare tutte e due le cose insieme, e quindi se crolla una banca di investimenti rischia che si porta dietro i conti correnti di gente che lavora. Aggiungici anche che per molti anni in America l'accesso al credito era praticamente iper garantito, quindi ovviamente quando hanno venduto prestiti e mutui a rotta de collo, poi quando il sistema ha cominciato a non funzionare, poi chiaramente tutta sta cosa poi a catena comunque se la portiamo dietro ancora oggi, quindi vabbè, diciamo insomma che anche sti cazzi, no? Poi dopo un pochino, però vabbè. Quindi Francesco, tu c'hai un'ultima cosa con la quale vuoi concludere questa meravigliosa serata? Di riflessione. Dal canale di Incerto, praticamente sto pro Italia. Anzi, queste giubbe rosse che poi sono tutte tipo scatole cinesi, uno dentro l'altra, sti gruppi, se si rimandano all'altra. Praticamente a Roma il sindaco Gualtieri vuole allargare la ZTL, però questo non piace a sta gente, perché dice che poi solo la gente ricca si potrà permettere di entrare, eccetera eccetera, e hanno fatto sto flash mob bellissimo, questo qua pure che c'è il coraggio di farsi vedere praticamente, in cui sto tizio è stato sulle strisce del pedonale, fa avanti e indietro, vestito tipo da nobiluomo dell'Ottocento, a dire no, niente, è roba che si permette solo i ricchi. Flash mob che in praticamente c'è solo stato lui e quello che lo riprende, questa cosa bella. Niente, però è un flash mob riuscitissimo, insomma. È una tristezza sta cosa, io. Perché tu dici, dato che non c'è venuto nessuno al flash mob, tu dici non lo fa il post. No, tu questo vuoi dire. No, non lo fa il post. Che poi la cosa bella, stessa c'è il post subito sotto. Aspetta, devo rientrare un attimo nel gruppo di sto tizio. Ah, un certo Matteo Brandi, canale ufficiale. Praticamente lui si iscrive. Penso di 3 anni. Ah sì, militanza e aver passato la domenica mattina sotto il sole nel traffico, bardato come un nobile dell'Ottocento, e aver finto finito di montare solo ora un video con mezza cena sullo stomaco. Però ne vale sempre la pena. Domani saprete il perché, Matteo. E poi esce fuori sto video. Ah, quindi cioè, è italiano, quindi questo. Sì. Ma poi militanza di che cosa? Cioè, verso cosa? Pro Italia, nel senso, t'ho detto, cioè, ti eri disconnesso mentre stavo parlando, per protestare contro l'allargamento della ZTL proposta da Gualtieri, praticamente. Ah, Pro Italia. E questo Pro Italia, cioè l'Italia fuori dall'Europa, l'Italia che diventa praticamente, che inizia a fare le battaglie del grano, ste puttanate qua, e Novax, tutto. Fascio. Vabbè, Puccio. Niente, mi dichiaro prigioniero politico. Benissimo. Gualdi? Io invece vi lascio con una notizia allarmante da Passione Cellulari, che è un sito raccomandatissimo. Attenzione, e poi io staccherei, io anzi già saluto, perché poi dopo penso che correrò ai ripari. Wi-Fi, il modem in casa ti ucciderà. Ecco quello che non ti hanno mai detto. Benissimo. Siamo anche contenti, perché tutto sommato, insomma. No, io penso che mi uccide prima il gatto, però vabbè. E a me penso che mi uccide questa bellissima musica sotto, che ogni volta che la sento mi ricorda una stanza completamente affumicata dalle sigarette alle 4 del mattino, io, Daniele Diretti e Alessandro Labboni a giocare a FIFA e darsi le gomitate. quando rosicavamo, naturalmente. E vabbè, sono cose, insomma, che hanno fatto parte della nostra vita, del quale dobbiamo essere orgogliosi a nostro modo. Io vi ringrazio e vi saluto per questa ennesima fantastica puntata tutti quanti insieme. Vi ricordo che presto usciranno cose con Marco Gualdi, venerdì prossimo ennesima puntata, esatto, di Ho visto cose. Stavolta non so che cosa ci sta. E vabbè, poi dopo lo vediamo. Invece Walter Sbano domani, dopodomani e dopodomani ancora, quindi martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 su runtimeradio.it con le orazioni della sera. Ma sei sicuro, mi pagate per questo? Cioè, tu dici che io lo farò perché... Ma so che lo fai, poi se non lo fai sì, va, certo, bene, certo, insomma. E invece Puccio torna presto con Survival, con Security Corner, insomma, vabbè, quindi Security Corner. Scusa a Davide Gatti per questo. esatto. Chiediamo scusa a Davide Gatti. E Francesco Lobby Frontali di Muro, anche lui tornerà con il suo podcast bellissimo, che non bellissimo, ha neanche un nome. Ci sono due puntate, ma non c'è il nome. L'occhio di Michela. L'occhio della madre, esatto. Vi ricordo, se vi va, mercoledì sera alle ore 21:30 su YouTube, sul canale di Pixel Deb, sono ospite e quindi parleremo, insomma, delle avventure grafiche dal 2000 al 2019. Quindi, insomma, una cosa che l'ho annunciato prima che lo annuncia lei, però insomma, sti cazzi. Perché siamo i re degli spoiler, diciamolo. Mercoledì sera, okay, ore 21:30. Va bene, detto questo, grazie a Walter. Ciao. Grazie a Puccio. Grazie a Francesco. E grazie a Marco Gualdi. Ciao. Che fa tanti anni, troppi. 40 tanti. 40 tanti, ciao.